Allora vi guiderò un poco in questa esperienza. Attenzione al respiro ancora generico. Quindi vi invito a focalizzare l'attenzione sull'aria che entra e che esce dalle narici. E vi invito adesso ad essere ancora più precisi. Notate i micromovimenti dei muscoli delle narici mentre inspirate ed espirate, soprattutto nel cambio tra inspirazione ed espirazione. Adesso vi chiederò di essere ancora più precisi e dettagliati. Vi chiedo di dirigere la vostra attenzione per diventare consapevoli di quale delle due narici respira di più o quella che respira di meno. Ci sarà sempre una piccola differenza. Adesso vi aggiungo un'informazione che si trasformerà in una visualizzazione. L'informazione è questa. Quando inspirate prevalentemente dalla narice destra, si attiva prevalentemente l'emisfero sinistro e viceversa. Quindi immaginate di creare un collegamento tra la narice destra e l'emisfero sinistro. O tra la narice sinistra e l'emisfero destro. Ora vediamo di essere ancora più precisi. Creiamo il collegamento tra la narice destra e quella sinistra, con l'emisfero opposto, in questo modo. Faccio l'esempio narice destra. Inspiro dalla narice destra e vedo una corrente di luce che corrisponde esattamente al respiro, che sta salendo all'emisfero sinistro, lo riempie di luce, scende di nuovo alla narice quando espiro. Ma possiamo essere ancora più precisi. Mentre espiriamo dalla narice destra, prevalentemente, questa luce che sale verso l'emisfero sinistro si concentra soprattutto nel lobo frontale. Sinistro. Così può darsi che qualcuno di voi cominci a provare un formicolio nella parte sinistra o destra della fronte. In ogni caso, lasciando che le cose vadano come vanno, perché la prima fondamentale indicazione per il risveglio è accogliere le cose, le sensazioni, le immagini, i suoni interni ed esterni, esattamente così come sono. Quindi adesso continuiamo questa esplorazione del respiro in questo modo. Noi inspiriamo e durante la espirazione ascoltiamo al nostro interno una voce che dice sì, un sì prolungato. Tutta la espirazione si accompagna a questo suono di sì, un sì prolungato, cantato. Questo sì diventa come un mantra e questo sì pian piano si trasforma nella voce di un coro che pronuncia questa magica parola, sì. E adesso lasciamo che la nostra mente profonda ci faccia arrivare delle immagini di cose, situazioni, presenti, passate o future, a cui noi diciamo sì, proprio così. Quante aree della nostra vita diciamo sì? A quante persone noi diciamo sì, vai bene così? Osserviamo poi se possiamo mettere al cospetto del nostro sì, cantato da un coro interiore, anche le figure dei nostri genitori, di nostra madre, nostro padre, i nostri nonni, i nostri zii, cugini, fratelli, la cerchia dei nostri amici. Adesso immaginiamo che da un punto in mezzo agli occhi, quello che gli orientali chiamano il terzo occhio, di cui più tardi parleremo, durante questo sì, proprio durante questo sì, esce un fascio di luce dorata che emana da noi, fuori dal nostro corpo, insieme al suono del sì, e va come i raggi del sole fuori di noi a illuminare, a irradiare le persone che ci sono più vicine. Ma anche i luoghi che ci sono più cari, i luoghi magici della nostra infanzia, adesso diventiamo consapevoli di come la nostra mandibola si sta rilassando e di come anche la lingua sta lasciando andare tutte le contrazioni e si appoggia gentilmente o fluttua leggera. Osserviamo come intorno ai nostri occhi i muscoli si distendono, si rilassano. Così che i nostri occhi diventano più leggeri, più vivi. E si scuotono di dosso tutta la pesantezza di un uso eccessivo. Che molti di noi fanno tutti i giorni, sui computer, sulle macchine. Perché l'occhio umano si è costruito per guardare anche lontano, all'orizzonte, per poggiare lo sguardo sulla linea dell'orizzonte. Adesso torniamo al nostro respiro e notiamo come è cambiato. Quale parte dei nostri polmoni viene implicata di più? La zona addominale, quella intermedia toracica, quella alta vicino alle clavicole, o tutte e tre insieme. E può essere molto piacevole scoprire che un atto così semplice come riportare l'attenzione al respiro sia un atto così rivoluzionario. Rispetto alle nostre abitudini quotidiane. Perché prima o poi, nell'attenzione al respiro, con il tempo che ci vuole, possiamo ricontattare un senso di quiete profonda. Con il tempo che ci vuole. Perché è come scendere dalla superficie del mare agitato, dai venti che corrono sulla sua superficie, scendere via via in profondità fino ad arrivare al fondo del mare, che rimane assolutamente nella quiete. Quando ritorniamo nella quiete, e soltanto lì, siamo finalmente ritornati a casa, siamo al sicuro. Al riparo dalle tormente, dalle tempeste, dagli sconquassamenti della superficie. È importante che noi impariamo come imboccare il sentiero che ci riporta a casa. Perché soltanto lì finisce la paura e l'agitazione. Adesso ciascuno, rispettando i propri tempi di elaborazione, si può preparare a ritornare alle forme, alle luci, ai colori e ai suoni di questa stanza.